sei tu guffo. Vabbè, non mi piacere. Guffo! Tu? Sì. Vabbè, Cla. L'hai visto, sì. Cosa, Cla? L'hai visto che te l'ho fatta quella cosa? Te ho scritto ok, non l'hai letto. Sì, ma volevo sapere se l'avevi vista. Va bene, quando vuoi fai quello che abbiamo detto, ok? Domani mattina dal computer, perché già sono registrato su eBay, no? Dal telefono, però devo mettere tutti i dati dalla carta. Invece a casa faccio comprare subito, che è tutto impostato, capito? I miei dati, il modo di carta e perché ballacchi. Domani mattina te lo ordino. Che non ha giobressa io. Quando hai tempo lo fai. Va bene. Dai, ci sentiamo, Lu. Ciao. 2 metri, così, ti bastano? Sì, 1,5 metri, 2 metri. Non più grande, tanto non me ne faccio niente. Se vuoi più corto, lo prendevo più corto. Boh. Quel prezzo lì, quanti metri sono? 1,5 metri? No, 2 metri. Prendiamo quello, già da futti. E l'altro, hai controllato se ce l'hai? L'altro domani mattina, siccome l'ho messo tutto in una busta e non mi ricordo dove cavolo l'ho messo, ma ce l'ho, c'è. E ho capito dove è già, dai, mi è venuto in mente adesso. È dentro una busta di pezzi di computer. Va bene, ok, dai. Ci aggiorniamo, che sto uscendo. Ciao Lucaria, grazie. Ciao cari miei. Dormito sì. Ma è pisciò che poni. Graziano. Aiù. Dormi. Dimmi, a canna. Buonasera, Pompu. Ciao Luca. Hai mangiato cagliola, Pompu? Cagliola mangiato, cagliola. Di pizzone? No, di pizzone ancora no. Di cacciofi. Bella fresca ne hai? Sì, al bar ce l'ho la bella fresca. Sto andando fra poco da Nicco. Il Vietorino. Buona, dai, io mi sono disintossicato, non bevo più. Che cazzo di disintossicato? Che cazzo è, alcolizzato, ti bevi una birra ogni tanto, che cazzo stai dicendo? Appunto, se non bevo più. Tanto quello quando vai nei posti già si beve, non è che non si beve, cosa fa? Ti invita qualcuno e fai brutta figura, bevi lanciata, ma la capelli. La bevi una volta ogni tanto, non come prima tutti i giorni magari, o tutte le mattine e tutte le sere come fanno certi. Vabbè, comunque sono un mese che non tocco niente, solo un bitter così ogni tanto, 1, 2, 3, acqua. E vabbè, quello non vuol dire niente, si cassi, no, sta tranquillo. Fa sempre male la roba gasata, lo sai più di me, che gonfia. Come se bevesse l'aranciata, non bevi la birra ma bevi l'aranciata, che peggio. C'ha zuccheri e ti gonfia il doppio dell'aranciata, già lo sai che tu. Sì, vabbè, ma la birra lo stesso, non è che fa bene. La birra se la sei bene e fa anche bene. Perché c'era l'altra volta una signora di 93 anni che ha intervistato e ha detto che gli beve la birra tutti i giorni lei. Se sono 4 bottiglie anche meglio, ha detto, perché sta bene, hai capito? Viva di tu, cosa arriva a zia, non arriva di nulla. Bisogna saperla bene, il discorso è quello, non è che bere a ubriacati, mattina, sera e notte, non va bene. Finché la bevi a pranzo, a cena, come il vino, diciamola. Magari la mattina giocando a carte con gli amici, è un discorso diverso, non è che ti ammazzano. Non so, però ci sono modi e modi di bere la birra, ovvio devi mangiare prima, no, a stomaco vuoto. Chi sa la cosa più fea? Gente che beve a stomaco vuoto, come qua non ho capito. No, io quando vado di là si comincia a assaggiare i salattini, patatine, cracker con pomodoro piccante, eccetera, eccetera, capito? Non è che tipo bruschette, mi. Quindi faccio una specie di colazione, poi arrivo a casa, pranzo e dopodiché me ne bevo una a pranzo, poi a cena. Ma una a casa? Sì, anche due, se sei ospite. Se mangi salsiccia e cose del genere, se sei così, si passa pure la gascia, non solo l'altro. Quindi regolati tu. Se sei in greffa, non ti basta una cassa, sta tranquillo. Ce ne vogliono due. Tu quanto riesci a bere di bottiglie e pompon? In un giorno? No, dipende, non lo so. Potrei anche bermene 6, 7, dipende. Di certo, no, come quello che conosco io, che quando ho portato a casa a pranzo, ho messo la birra nel frigo e cominciava, oh, dammelo un'altra, gli ho detto, a scuola, gli ho detto. Mi ho comprato due casse, gli ho detto, per cosa mi hai pigliato? Per un ghiacciolo, gli ho detto. Se tu ti vuoi ammazzare con la roba calda ti ammazzi, gli ho detto. Il frigo è lì, prenditela, gli ho detto, la birra, a me non me ne fotte nulla, detto, io sono abituato a bermela, ho detto, fresca. No, ghiacciata, ho detto, con la roba bollente. Vabbè. Dipende da come uno se la beve. C'è gente, no, come lo dà, Luigi? Come si dice? Io conoscevo gente che se non era ghiacciata, col ghiaccio dentro non te la beveva. Io non ho conosciuto più uno di quelli, non dirlo a me. Io quando vado al bar che c'è vicino a casa, quello del distributore, gli dico sempre, la birra o me la dai da fuori, gli ho detto, o se l'ho detto non te ne bevo, perché gli ho detto, io birra col bicchiere ghiacciato, non voglio, detto, finire a pronto soccorso per i problemi degli altri. Quindi se quello vuole crepare prima, fallo crepare prima, a me non me ne frega niente, io blocco di stomaco, non ne voglio avere. Specialmente detto con quello che c'è, che metti dietro nel bancone, tipo prosciutto, salame, eccetera, eccetera, capito? Che mangi una cosa così, ti blocca lo stomaco, sai come diventi? Viola e se non ti portano i 5-10 minuti esatti lì a pronto soccorso sei morto. Lo so. E cosa vuoi ti dica? Boh. Quelli sono le classiche persone che si bevono la birra che è congelata fuori, invece a casa se la bevono calda, capito? Mica la mettono in frigo, no? Non sono così scemi a mangiare, per dire, si fanno la pasta asciutta bollente, appena tolta dalla padella e bevono una birra congelata, vai, che non esiste, vai, ho visto gente che si controllava, no, io a casa la bevo un pochettino più calda la birra, quando è al bar non conto perché al bar c'è tutto il tempo di digerirla e cose del genere, capito? Certo, qui la puoi usare fresca, l'estate, ma anche l'inverno, vabbè, ho detto che è bella fresca, ci sta, anche il caldo non dico te la richiede, ma faccio un panino, un bel bicchierotto e c'è due, dai, basta, no, un palino e dei zimbuli di birra, dai. Io la verità, massimo ho sempre bevuto due al circolo, ma non fredde, calde, quando vado là dico, guarda, non la voglio fredda, la voglio a temperatura normale, ma la bevo piano piano perché io se non riesco a digerire, anche perché un bel po' di volte che mi è capitato, per dire, di prendere le pizzette bollenti lì in via Tempio, ti blocca lo stomaco e ti fa più male, ti ubriaca senza bere, capito? Lo so, ma stavo bimbi, sai. Vabbè, io non è che non posso berla, ma ho deciso, perché siccome devo fare un intervento, allora ho detto di metterla da parte la bevuta, so, mi chiedi mi chiamo l'albergo, dai. Se mi fai un intervento un discorso diverso. Quello è logico. Però cioè approfittare della birra così, c'è gente invece che si beve il limoncello e è peggio mi. La verità. Il limoncello lo scalda. Io quando abitavo in Corso Vittorio Emanuele la mattina mi alzavo per dire qui pigliavo il caffè, la caffè e i ramazzotti per dire, dopodiché mi pigliavo il panino. Ma eravate i tempi, avevo 30 anni, non avevo 50 come adesso, no? Adesso le cose sono cambiate, lo stomaco cambia, cambia tutto. A 50 anni cambia anche la vista, incomincia a diminuire la vista e capito, e problemi, non è che puoi saldare al buio come facevo io, no? Adesso io ho stesso problemi di vista, da vicino non è che vedo bene, gli occhiali, è saldo che è una bellezza, con gli occhiali da 1,75 più la lente di ingrandimento, io sa, faccio micro saldature, vabbè, c'ho il saldatore adatto, quello che sembra un ago quasi, non dico come un ago, ma quasi. Vabbè, ma te lo sto dicendo io, dopo 50 anni incominci a metterti gli occhiali quelli belli grossi, non ti preoccupare, te lo sto dicendo io perché come mestiere noi arriviamo a quello, non ti bastano più quegli occhiali che c'hai, ma ti ci vogliono quelli più grossi. Io ho conosciuto uno che lavorava la scarpa, figurati, lui è entrato senza occhiali a lavorare. Dopo quasi un anno, a forza di come andare, per dire, in montagna, vedi la neve, in pratica ti riflette la lampada e ti si crepano gli occhi, come stare sempre attaccato al computer, capito? E quindi comincia a avere problemi di vista, il cristallino si rovina, capito? Lo so, ma anche sì, ma anche i fumi, lo stagno del coso, del fanno male quelli, del con la pasta saldante, poi il quello per sempre la saldatura, il flussante. Io di tutto ho sopportato gli occhi miei, anche le elettrosaldature, quelle fatte in ferro e cose del genere, parecchie volte sono andato al pronto soccorso perché mi ha irritato gli occhi, sembrava che avessi cemento dentro gli occhi, capito, polvere. Io mi sono rovinato così, pure da lavorare, capito, per 25 euro al giorno, quindi non ho... Adesso non me ne fotte più nulla, no, non ne faccio più di cose del genere. Quando faccio qualche cosa per me, per gli altri non faccio più niente. Le gambe ormai ce le ho come ce le ho, tutte a dolori, e quindi dal freddo, dal caldo. Quando uscivo in moto prima non c'avevo niente, uscivo anche con i capelli bagnati, adesso nulla. Quando mai arrivato a questa età qui, quando arrivi a 55 anni, boh, arruinatosi. Non ci sali più sopra i tetti, non ti preoccupare, perché è finita l'era, capito? Quindi non ti fidi più. Ah, vabbè, io ci salgo ancora, sono giovane, dai. Ne ho 10 in meno, 11 in meno di tetto, 55 ne hai, così? 55 ne hai fatte, sì, esatto. Salivo anche sopra quei tetti, figurati in cosa, con le tegole sarde, dove sotto c'è la canna solo e non c'è altro. Allora ero leggero, adesso ne peso più di 80, ce la faccio a ammazzarmi per niente, per 25 euro per dire, no, non esiste, no. E neanche per 50 ci salgo sopra il tetto, se voglio un'antenna vado ai bagari, perché sono io il rischio, salgo sopra la scala, da solo, eccetera eccetera, capito? Quindi adesso quando salgo più sicuro. Se mi porto una persona in modo che mi dà una mano e faccio l'impianto come si deve, specialmente lì alla, come si chiama, alla cementeria, che c'è il tetto che è lamiera fine, leggera e liscia pure, quando sali con le scarpe devi stare ben attento, perché se dovesse essere umido sai dove ci sci, e ne piove di sotto. Lo so, poi l'età è così, l'età passa per tutti. Lo dirò a me, io guarda quando sono entrato a lavorare per Prospero ne aveva 10 più di me, faceva salire a me sopra il tetto, dice arrangia tu Antone, il lavoro lo sai fare, prendi quello che ti occorre, fatti il lavoro tu, e Alessandro, quello che abitava qua vicino a me, e andavamo assieme, salivamo sopra il tetto come se fossimo due gatti, figurati, e facevamo il lavoro neanche in mezz'ora. Adesso no, adesso metto controllo, mi assicuro come siano le cose, se si può salire, se riesco a salire bene, se no sono andato anche in culo. Rifiuto anche il lavoro, non me ne frega niente. Non voglio soldi prima, non voglio soldi dopo, quindi una volta fatto il lavoro, che l'ho fatto bene, allora mi prendo di là e sono andato anche in culo a quel punto lì. Ma salire così sopra un tetto a questa età qui, specialmente a 80 kg, no? Al centro storico mi dispiace, non vado più. Se salgo magari salgo in quei tetti nuovi che ci sono adesso, che sono le tegole diverse, che fai lavoro sicuro, perché per legge adesso ti puoi agganciare, capito? Ti compri la, come si chiama, ti agganci con alla fune in acciaio e quindi lavori tranquillo. Lo so, oppure un tetto, dai, un tetto senza tegole, un terrazzo, dai, va bene, il terrazzo è un gioco qua, ma uno si su che il tetto è un ciaprapetti, un casino, è molto molto difficile salire lì, molto molto difficile. Ciao Vittorio. Te la metti una mano sotto il sedere a sorreggerti, ma sì già ti sorreggo bene, ti piatto un paletto e già ti muovi più, vai buon cuore, ne vai. chi c'è, buonasera a tutti. Se vuol dire di già mediti, dormita ieri. No, oggi mi toccava l'amore. Hai fatto l'amore oggi, mi ha tolto te. Oggi è 26. Che altro 26? Perché ogni 26 lo fai? Il 13, il 26, poi il gioco all'otto. Vai, 26, mi sai quando lo puoi fare, quando c'è qualche brasiliana, in modo che ti stanchi bene, perché se c'è tua moglie, ti manda il cane, ti manda, te lo dico io, e te ne passa la voglia e te lo taglia quel salsiccione. Mica ti ho mandato qualche signorina, Antonesso, adesso mi ricordo se su WhatsApp o su Messenger. Non mi arriva nulla, caro mio, perché ci ho bloccato tutto, sia uno che l'altro ho bloccato, quindi non mi arriva più niente. Devo sistemarmela adesso, sia uno sia l'altro. Male hai fatto, ci rifaccio più un po' gli occhi, vero lui? E allora, faccio per lui. Dice Vittorio, Vittorio è socio, non mi intendi. Ciao Vittorio. Ciao, grazie, buonasera. Vittorio, se la futti, se in giro, via da Edo, che è giovano. Edo, paro sangue caldo, no freddo come anche lui, oramai siamo vecchietti. Caspita, mica eri brutto da giovincello, Luca. Non hai guardato qui. va bene, non ho giovincello, sono bello, carino, dai. Ma che sono brutto sono, No, adesso sei bello. Ti sei criticato di un matese. Non lo so. Se mi muri due rotti che hanno qua a parire una mountain bike. Lui. Una bicicletta. No, mi stavo guardando il computer, un po' di armi per esta, capito? A vedere se ci sono novità. Lui c'ha che pomponio. Ehi, Antone, l'altro giorno sei sparito e dove sei andato a fingere? Ah, già sono qua, non ti preoccupare. Ah, meno male funziona l'antenna che ho messo a posto, l'exit 30, mi sta ricevendo adesso. Ti sento benissimo, cara. Meno male. Adesso dovevo sistemare la caldiscona, cazzo. C'era il cavo che era tutto buco male. Ecco perché non ricevevo un accidente. Adesso ti ricevo perché ero nel terrazzo, le stavo levando la roba dallo stendino. Ah, mi senti? Io ti ascolto, no, stavo provando io una X30 che mi hanno dato, è una discona, capito? E l'altro giorno pigliava un accidente, ho provato, siccome l'ho messa in un piedistallo nel terrazzino, ho visto che ti sento, quindi vuol dire funziona bene. C'è la radiale che scende in giù, in pratica, l'X30. È piedata per il PMR, hai capito? Che è di quella che c'ho io, della X300. Ah, se mi hai tolto la X300 mi metto la X30. Così almeno alleggerisco un pochettino il palo, perché l'altro giorno mi sei girato. Mi sei girato da solo il palo, quindi non vorrei che per sbaglio se arriva un'altra passata di vento così mi trovo il palo in terra. No, già si sente in casa, però un pochino disturbato si sente, capito? Invece nel terrazzo si sento più bene. No, sono con la direttiva, non sono con la X30 ancora, capito? L'ho acceso col portatile per vedere se sentivo, adesso sento almeno, invece prima non sentivo nulla. Quindi adesso, se appena migliora il tempo, ne tolgo la X300 che è nuova e ci metto la X30 piazzata, che è più corta, cioè i radiali che scendono in giù, è molto più adatta per la questione delle 4.46. Così ne tolgo la direttiva e me la conservo col motore. Che deve mettere la direttiva, Antone? Ah, se dimmi, come ha detto Giulio? Quanti deve mettere la direttiva? Ciao, grazie, DRS. Ciao Giulio, no! Stavo dicendo, Antonello. Appunto, usala, perché tu alle volte dici male, tocco fare ad esempio. Non ti sentivo, eri tutto messo male. Adesso già stai arrivando. Non sei molto alto, però già stai arrivando, già si capisce. Ma poc'anzi non ti sentivo proprio. Eri tutto messo in mezzo al QRM. No, stavo chiedendo a Antonello quanto gli è diventata la direttiva che è, Antonello. Ok, che mi sembra vicina di elementi. Capita. Alla grande proprio, Andava bene. Ui. Mi sa che per i due metri, Antonello, andava bene. Ti ricordi una volta le antenne di... quelle antenne grandi della televisione privata che c'era a Sassari? Come si chiamava quella stazione? Che non mi ricordo più. Quelle che avevano la direttiva era grande, era. E non mi ricordo la stazione, come si chiamava. Quelle di Tipo Sardegna sono, quelle che stai dicendo tu. Ce ne sono rimaste poche in giro di quelle antenne, o quello potevi fare la direttiva per la 27. Te li facevo a Sardegna, quella lì. Certo, la bella antenna. Ma vabbè, sono per la 27, ma anche per i 2 metri, sicuramente. Perché intanto ho penso che lavorasse su quella frequenza più o meno, no? È una cosa del genere, pare che andava. Adesso non la frequenza, la verità non me la ricordo. Però lavorava intorno a quella roba lì, sì. Sì, mi sembra che lavorava, anche, forse risolava anche in 2 metri. No, quella che ho io fa la direttiva, fa da 144 a 520 fa, la direttiva che ho io. Aspetta, ottima. ottima, è una gamma molto ampia, molto larga, per cui puoi utilizzare diverse apparecchiature di varie frequenze. Bene, bene, avanti, grazie. Eia, eia! C'è anche questa, copiatola! Avanti! Boh, non so se mi ascolta, ciao Giulio! Ciao Luca, sì, ti ascolto bene, meglio di Graziano ti ascolto, per cui va benissimo. E allora, state invecchiando, così è, vabbè, cosa ci vuoi fare, meglio invecchiare sempre o Luca? Giù, io mi sento anziano, ma tutti gli acciacchi mi va giù, anziano, guarda, non dico un ottantenne, ma un settantenne buono buono. Sì, allora possiamo fare lo scambio, possiamo fare. Io ti do la mia e tu mi dai la tua. Capita, io ci sto, mi cosa ti gridi? Capita, non sei tantenne, ma vai. Se ne hai 30 di manco di me, 30, 32, 33 meno di me ne hai, pensa un po'. Capita, mi sento ancora un giovanotto io e tu, che hai 30 anni meno, capita, ti senti già anziano. Ma cosa ti senti? Tu pensa che alle tua età, io ho fatto l'ultima gara quando correvo, l'ultima gara a 43 anni, pensa un poco. Cosa mi ti dici, Abu? Non lo so. Non lo so, forse magari ai tempi che furono i tuoi, anni addietro, magari tu facevi sport tutte cose, io sport non ne ho mai fatto, poi tu non hai mai fumato, io ho fumato, bene, non sono un bevitore, però qualcosa già me la sono bevuta pure io, tu non l'hai mai bevuto, so, tutte queste cazzatine, sembra così, col tempo li accumuli e diventi anziano prima di subito. Beh, quello già è vero, quello conta, sì, certo che conta, e soprattutto aver fatto sport da giovane è importante quello, perché poi te ne avvantaggi ad una certa età, senza dubbio. Poi il fatto della sigaretta, il bere, eccetera, quelli poi sono micidiali per il fisico umano. E vabbè, comunque, ognuno ha le sue abitudini, il suo modo di vivere, e tutti i modi di vivere vanno bene. Quando uno si accontenta, o meglio, se sceglie quel sistema di vita, anda sempre bene, nessuno gli può dire niente, per cui non ti pentire ad ogni modo, a futtidini, già va bene lo stesso. Avanti Antonello. Aspetta, faccio passaggio con questo. Guardate dove sentivi più basso, aspetta un secondo che lo accendo. Io ti ascolto lo stesso bene, non ci sono problemi. Io l'altro giorno, tempo fa, da un mesetto fa più o meno, mi si è agganciato il filo dell'auricolare, c'avevo l'auricolare, mi sono mosso e me ne è caduto per terra questo portatilino. Oh, da quel preciso istante non funziona più il frequenzimetro. Prima vedevo sempre la frequenza che usavo, adesso non c'è più, perché giustamente l'ho giocato a terra, involontariamente, ma l'ho battuto per terra. Per cui pazienza, vabbè, già costa poco, costa 30 euro e anzi forse pure lui manco, per cui non è una grande perdita. Avanti, grazie. Eia, sì, se Luca ha detto a 30 c'è un grido, e allora, così devo essere sempre pimpante, e allora, sai cosa mi diceva Luca, sai cosa mi diceva la buona anima di Rosa Verde, no? Veniva delle volte, veniva da me quando io stavo lavorando, eccetera, no? veniva da me, e un giorno me ne è venuto con un peperone, siccome lì lui fa, bene questo peperone, domani dice porto anche il gatto, gli frego il peperone nel sedere e lo butto dentro il negozio di signora Lina e vedi come il gatto salta all'altezza degli scaffali, dice, perché gli viene da saltare perché per il bruciore. Ho fatto, ma non sarai mai qua vero, gli ho detto, ma non sarai scemo, no? Tra una cosa del genere. L'animale, e poi ti sembra che tu vieni e butti il gatto così con quel sistema e nel negozio di signorina, ma vai a Drommi tu. Lo so, purtroppo chi è che sta sovramodulando? Chi è che sta mettendo a parlare sopra? Non si fa così. Sì, C'è qualche imbecille, no? Non te la prendere tu. Se mi senti, mi senti. Se non mi sei vecchia, Edu, è l'importante. Oh, che vizio, allucinante, ma... Avanti, grazie. Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, tu, Gianluca, fai a un grillo, prese la treccia a sinistra, i bacchetti di sigarette li fumavi, e di imbriacina a sinistra. Ma con il sadu! Grazie. Ne abbiamo due conseguenze, va, no, da fuori niente per mandare giù. Guarda che c***o che è. Non le muore alla cazzone, si l'ha piccato. Tutta la recitazione che ha lavorato quando è andata in pensione, l'ha messa nell'ospedale, basta una. Sta mangiando, mi viene mangiando tutta la stagione e Piccione non l'ha distinta. A me da dargli che crepato e non ha mai né mai né pizzo e né fumato e mi manco di tutti. E allora? Lo so, ha fortuna la vita secondo me, è a fortuna. Perché c'è gente che ha lavorato una vita, si fa 2 anni di pensione, boh, rabbo in secco e peggio. E questo ha lavorato, mi ha lavorato da ragazzino, come un asino. Prima bandiera autista, da voi, quando è diventato più umano, quando è posto in magazzino, magazzinini, e da lì se n'è andato in pensione, e lo cazzo è durato 3 mesi, 20 giorni per andare a Milano per curarsi, in giro di manco un peso, beh, va posto di peso. E la liquidazione l'ha trattata a Caparamida, a Sassari, a Rufunerale e a Rucapuzzati. Sta mangiando tutti i finali, i ministri, e cosa ne ha fatto? Vabbè, grazie. Ripeto, la fortuna, vero Giulio? Allora, se uno non ha fortuna nella vita, manca tutto, cioè, certo. Non solo in fatto di salute, ma anche in fatto di economia, eccetera. E allora, se uno ha fortuna, addio. Poi dipende sempre dal comportamento, questo è ovvio. Perché se uno fa la bici, diciamo che si sta facendo del male da solo. Però se nella vita non ha fortuna, ha davvero una vita lunga, addio. E d'altronde lì non ci può fare niente nessuno, Non ci può fare niente nessuno, se non condurre una vita come si deve, senza strabizie, senza diciamo, sofferenze oltre l'umano. Per cui tu ieri, oggi stavo leggendo, una donna di Dorgali, 106 anni, e sta facendo la festa, ti puoi immaginare, 106 anni, Luca. Lo so, adesso ci vuoi fare, purtroppo. Un po' per uno la vita secondo me, un po' per uno, poi c'è a chi arriva a 100 anni, guarda è morto un signore vicino a casa, no? Ma sa che anche, l'hai anche conosciuto Giulio, sicuramente, si chiamava Francesco Simula, che faceva il tappezziere lì in via, di fronte ai carceri, lì in via, che via è Mari? Via Roma? No. Via Cavour? No, non ci vedi che carceri proprio la via. Ho capito, comunque la parallela di Via Roma. Vabbè, dove fanno i prelievi, li facevano i prelievi un tempo, via Zanfarino, c'era un tappezziere lì. Tu li vedevo questo signore, 90 anni, ma non li dimostrava ma proprio niente, poi ci voleva 70, 75, 90 anni, guidava ancora la macchina, andava ancora... Non so se stai parlando perché ti sei interrotto. Sì, beh certo Luca, lo so, purtroppo è così. Dipende anche dal tipo di DNA di una persona, e quello è importante, perché E ripeto, ci vuole fortuna nella vita. Tu pensa, caspita, che ci sono i bambini che muoiono improvvisamente, muoiono di malattia, muoiono per tanti vari motivi. Per cui c'è gente che vive 106 anni, come ad esempio questa donna Edor Gali, che sta festeggiando il suo 106esimo compleanno. Una cosa assurda, buon per lui, per lei naturalmente, io vi auguro ancora anni di vita, ci mancherebbe altro. Però c'è un'ingiustizia anche in quello, Luca. Lo so, stavo dicendo che questo qua comunque è morto a 90 anni, ma non le dimostrava affatto, si portava benissimo, andava anche a caccia. Mi hanno detto che è caduto a caccia, poi non so cosa è successo, e poi non lo so, forse per la caduta, oppure magari aveva problemi di salute, boh. Ripeto, è sempre quello, noi, la vita di tutti noi è legata a un filo, quando si spezza quel filo siamo buttiti tutti quanti, per cui... Che prima o poi, è meglio sempre buio, però per dirti, no, tu pensa che ci sono bambini già niente, appena nati e muoiono lo stesso, per cui ti puoi immaginare. Ah, mangiato Antone, che beve la birra come te campa 100 anni. Io mi assento 20 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, forse anche mezz'ora, dai. Va bene Luca, d'accordo, Antonello si è già sentato, sta bevendo la birra per campare 100 anni. Avanti, grazie. E allora, consigliere, fatti l'inizio, se ne manco di rifugio, ha sempre sgombato come c'è un aino. E a voi parola, Balluccia, dunque, non c'entra niente, fumi, bim, fai, dice, chiavi, muri, rumori e buono, non vengo da che qua. No, ci sei, sono un fosso, grazie. Guarda che c'è anche Vittorio, fatto riprendere, grazie. Aspetta che ha chiamato Antonella, avanti Antonella. Pensavo che eri caduto in un fosso, ho detto, invece ti sento adesso. Comunque sul telefonino che ho io mi ha messo nella blacklist quel bastardo del coso, che mi ha parlato male brasiliano. Però posso trasmettere e ricevere in Italia, quindi sono a posto. Come funziona sempre? Ogni tanto lo metto a ascoltare. Ma ci sono certi, capito, che sono da prendere e sparare, come è capitato a me. Io mi auguro che non ti capita mai uno del genere, cazzo, che odia gli italiani. Fatto a coso pure, non solo altro. Che io a posto suo mi sarei vergognato a un certo punto a offendere gli italiani, ma comunque sì, se la piglia in culo. Lui quanto è? L'ho eliminato il Brasile. Che se ne vale a fanculo, lui è Brasile, se ne vale a fanculo. E Lula è quello che ci hanno messo anche. Però io da quelli non c'entro quasi mai. Vado a vedere in quei canali là se c'è qualcuno. Faccio qualche chiamata, se c'è qualcuno rispondo, se no. Luda Casseggio, ascolto un po' quell'imbecille e poi lo spengo. Ma non mi sarei stampavitato un differente. Sono tutti matti. Oh, grazie. Guarda Antonella, se per caso ci hanno bannato lì, da quel coso lì, non hai perso niente lì. Non ti preoccupare perché non hai proprio perso niente. A noi ci interessa parlare nel canale canalizzato, in modo che ci possiamo sentire noi. Intanto chi sa niente, tu sai niente qua, Camì, ma tu sei convinto. Adesso c'è la greffa dei campionisti, c'è la greffa dei camionisti, c'è la greffa delle puttanelle, c'è la greffa degli imbecilli, tutti, ma per carità, io quando sono sul canale di gruppo, se ci sono più di 7-8 persone, non c'entro mai. Figurati, no, non si può. Cosa ne fai a avere 60-70 persone in un canale? Non serve a niente, Antonio. Già lo so quello, ma quello che mi dà fastidio non è la persona che hai capito. È il responsabile che mi ha risposto così, hai capito? Quello lì è il responsabile che hanno scelto loro per il Brasile, mi ha risposto male. Mi ha parlato male. Cazzo, mi pare che quello per la questione di Cesare Battisti del Vescere, hai capito? E quindi dice, tu qui non entri, mi ha detto, pezzo di merda, mi ha detto, così in italiano mi ha detto. E ho detto, non ti ho fatto un cazzo, ho detto, mi rispondi così. E sono rimasto di merda, sono rimasto, ma di domani sera a me, l'ho tentato. Come è entrato la Giubur sulla bottata, la Giubur. Ha preso, mi ha messo in blacklist, mi ha messo. Però ci ha parlato per quasi 2 ore e mezza, te lo dico. Gli ho fatto capire che in Italia siamo più bastardi di loro. Hai capito? È possibile, non è possibile. Ma lo vedi che sono sei brasiliani, tutta gente morta di fame, cazzo, per carità. Se c'è un paese nel mondo, cazzo, che fa schifo è proprio Brasile, pensa un poco. Tutti indistintamente però, dal più famoso al più disgraziato, al più zingaro. Pacca le dai, oh, yeah. Che se parecchi non sono del mondo, sono schifo, per carità, tutti quanti, mi da poco delinquente in questo luogo, oi, figurati, non ti preoccupare, Antonio, mandala al diavolo e basta. E infatti già l'avevo eliminato tutto, ed era pure amministratore, non solo l'altro, ho capito. Quindi, figurati tu, tra gli amministratori che prendono. Presi così, mi scelti per sbaglio, ma no, l'ho eliminato subito, anche se mi ha messo la blacklist non mi ha sbotto proprio niente a me, non me ne ha fatto nulla, basta cambiare carta, volendo, e da tanto la patata gliela posso mettere lo stesso, anche per un mese, se lo faccio come ha fatto quell'altro che ha usato il computer, ha creato, e gli metteva la patata per quasi un'ora e mezzo. Un tubo di vazia, lui più faceva cosa, più lo bannava e quello più entrava, capito? Perché usava altri tipi di carte, capito, strane. Faceva l'applicazione nuova, pigliava, entrava e gli dava un nuovo mattano, ma l'ha fatto per quasi 2 mesi lì. E infatti, molto ci vuole, cambi nome, cambi numero di telefono, che problemi ci sono? E lo fai a beffa, no, quello non è un problema, però diciamo che sono cose che non si devono fare, sia ben chiaro, questo sì, ma non c'è parlare nemmeno con questa gente così, se non è gente affidabile, ripeto, non ne vale la pena, guarda. Che c'è niente di fulla, questi continentali, anche questi stranieri, sono una massa di imbecilli, sono, ma veramente. Vanno a criticare l'Italia, l'italiano, capito? L'uomo che è il più cordiale del mondo. Sono delle borse di fame questi brasiliani, fanno schifo, figurati. Oi, oi, oi. Vabbè, avanti, grazie. Ehi, la regia, Antone. Tutti dilli, tanto tutti guanti. E io me ne sono accorto, guarda, io non riuscivo a farlo uscire, ricevevo in ricezione e addirittura mi dava anche 100 km di distanza, però in trasmissione non si sa dove andava. Stamattina l'ho acceso, ho provato, siccome c'ho l'altro telefono che è uguale, ho acceso l'altro, ho detto, tatami, e che si è sistemato tutto, aiutato. Forse se qualcuno si è accorto che quell'imbecille ha sbagliato in Brasile. Forse magari se sono accorti in ritardo, ma comunque sia, si è sbagliato, perché non ci si comporta così, capito, a un certo punto, ma se la biglia in culo è dove. Spero solo che quello là, guarda, duri poco come amministratore di lì in Brasile, che l'arrestino o che l'ammazzino lì, uscendo dalla banca come fanno di solito lì in Brasile, che per 100 euro ti ammazzano. Spero solo quello, che l'impallino è il modo che ha finito di rompere le balle. Va bene, io mi sto preparando che sto uscendo, ci stiamo dopo, ok? Statemi bene, ci stiamo, fammi letta. Ok, va bene, dai, ciao. Ciao Antonio, ci sentiamo allora, alle prossime. Avanti, grazie. Allora, che c'è antenna, ti la boni tu, beh, sì o no? Ehi, quando anche il tempo gli ha la boni. Questi giorni non fa che c'è freddo, poi c'è un conflitto, dunque niente da fare. E poi stanno facendo altre cose qua in casa. A tempo buono, ya! La visita! che col figlio. E tanto poi la devo spostare dall'operato. Perché è troppo vicino all'antenna del baraccino, della 27. Ho capito. E vabbè, comunque, PMR è sempre così, purtroppo è così. Secondo dove sei va bene, secondo dove ti sposti non lo può sostituire nessuno, nessuno, perché nemmeno l'applicazione Midland, sì è vero che con l'applicazione Midland parli con tutto il mondo, magari si affitti di parlare con tutto il mondo quando c'è poca soddisfazione, il baracchino è tutta un'altra cosa per conto mio, io la penso così. Ehi, vabbè. Quando ha più tempo, ah, scusate, mi devo cambiare solo il filo e spostarla. E due staffe che gli ho già attaccate all'uno dall'altra parte, la metto lì, metto appena il tubo appena più alto, là, e già andare. Tanto il filo che ho comprato già è abbastanza più lungo, dunque mi andare. Eh beh, certo, andare. Eh sì, per così almeno anche, ti puoi anche spostare come vuoi e non perdi mai la trasmissione, ecco qual è il problema. Andare, perché non sono tutti fortunati ad esempio come me, che io in questa posizione, se io mi sposto mi anche di un metro, boh, sono confutito, non mi sento più, o perlomeno mi sento malissimo. Mentre invece se rimango sempre qua, in questa posizione dove sono adesso, allora mi senti tu e mi sentono anche gli altri. E lo stesso discorso vale per ricevere, se mi sposto è ancora bigio, non riceviamo più bene, ecco com'è. Dunque per me il punto migliore in questa casa è proprio qua, seduto al centro del letto, proprio al centro, dalla parte mia naturalmente, no? Se mi sposto verso piedi o verso testa, boh, e comincio già a frusciare col coso, con il QRM. Eia, eia. Là. Sto guardando nel computer lì grande PMR e senti, ho fatto se li faccio imbarare lì grande G10 50 poi lì grande G103 ma i prezzi ce ne lo so ma tutto sommato non ne vale la pena spendere più, scusa, ma qualche te lo fa fare, no, non impindi più di nai, tanto te lo vedi la frequenza quella che è, se vuoi due gorre di club, se vuoi frequenza, non ne vale la pena, manca comprare un PL, ma che dai, ui, no, ma mi stai zitta, va, io me l'ho già assiso, va, sul canale di Zia, assiso, non ve un'anima, perciò, il PMR, io come vedi, ci siamo solo noi due in questo momento, così che a cosa serve, ad esempio, a spendere per dire soldi e comprarti altre cose, non ne vale la pena, assolutamente. Sì, non c'è di avvicinare. No, era così tanto per guardare, perché ho acceso il computer per farlo funzionare un poco, e stavo guardando così, l'ho messo adesso, no, e poi ti dici, mi aggiungo un nuovo numero, senza la cattola, senza tratta uguale a questo. Poi c'ho quell'altro, veicolare, anche. E cosa me ne butto? No, poi dalla 27 gli ammi vacciano che ci vado. Laggio a voglia il naso. No, non compro più niente, né qui. Ma cosa me ne butto? Che fa se non se ne va più nulla? Tu lo vedi? A me me ne è caduto in terra, c'era l'auricolare, no? Che stavo ascoltando con l'auricolare, Mi sono ribubito, come ti ha tirato, non mi sono curioso contro, ma che un filo attaccato alla legge. E me ne è caduto in terra, E adesso il frequenzimetro non funziona. Oh, magari si potrà aggiustare, perché se lo apro magari si è staccato qualche filo, ma non mi dà tutto nulla cosa, sì, se non funzionava tutto, ma me ne andava a testa, che se ne affutti, chi se ne frega, non è un problema. Ce n'è uno qua, qualche tacchi, Midland, PR02 PMR 446 è un walkie-talkie professionale, robusto, resistente, progettato per il mondo degli affari. Installazione senza Zoffus e utilizzo gratuito. 16 canali, 8 più 8 preprogrammati, batteria, litio, 1008. Vedi, la batteria è grossa. Autonomia 24 ore. Vabbè, di tanti tipi ci sono. Ce ne sono tantissimi tipi. E come si chiama quella, la sigla? Com'è la sigla di quello? Sempre della Midland, si chiama Walkie Talkie Midland BR02 PMR446, è un walkie talkie professionale, robusto e resistente, progettato per il mondo degli affari. PMR 440C, installazione senza Zoffus e utilizzo gratuito. 16 canali, 8 più 8 programmabili, batteria agli ioni, litio da 1008, costa 56,61. Ed è Midland, ho capito, sì. Si legge, no, Wari, contai tutto, Wari, i tacchi, no? Walkie Talkie si chiama, si legge, Walkie Talkie, quello lì è, vuol dire, Walkie Talkie vuol dire, radio portate, vedi, poche parole, è così che si pronuncia, Walkie Talkie. Sì, già ne ho visto tanti anch'io al computer, adesso vabbè, sono già un po' di giorni che non è più acceso il computer. Anzi, mi devo ricordare a mettere a caricare anche quello del portatile, perché io quando accendo il sole, sto accendo quello del base, non quello elettrico. Però c'è quello portatile che mi ha dato, devo caricare la batteria, ma che nuovo, trattato pochissimo, ma veramente poco. È un computer che abbiamo in più praticamente qua, capito? Questo display non ne ha però, c'ha le asole, si vedono, il display non ce n'è, c'ha due ruotelline sopra e l'antenna è lunga cante l'indice, è piccolino, però è professionale. Da 1008 la batteria MAH 3.7 volt con autonomia fino a 24 ore. 24 ore non vedrà sta. Base di ricarica inclusa. Piccolina, è bellino, però non è a display questo. Ho capito. Vabbè, se è professionale dovrebbe avere almeno 5 watt. Leggi il watt a vedere quanti sono, perché se sono 8 più 8 vuol dire saranno 8 di LPD e 8 di PMR, di magari programmabile, questo sicuramente è così. Guarda quanti watt ha, o 1000 watt, cosa va? Se è proprio normalissimo vuol dire che ha appena 500.000 watt e 100.000 watt dell'LPD. Qua dice batteria agli ioni di litio da 1008 MAH / 3.7 volts con autonomia fino a 24 ore. Sì, questo vabbè, queste sono le caratteristiche della batteria, ma la radiolina quanti watt ha di uscita? Leggi le caratteristiche, ci deve essere la potenza della radio, quanti watt dà in uscita? Quello già lo so, 1800 mAh sono la carica della batteria, che non si va niente, in due colpi di portante non viene più. Secondo la potenza dell'uscita, in quattro colpi di portante, 1800 mAh non si va nulla. Quella che sto usando io adesso ne ha 3800 di mAh, penso un po', per la batteria, 3800 mAh, sicché dura tre volte tanto. Avanti Rudico, che allora, cosa facciamo qui? Ma, adesso c'è la giubbetta. Legge, dove c'è scritto power, sicuramente è scritto in inglese, power, watt, va tipo se è 5 watt, può essere, capito? Allora, va te lo dico, mi. Allora, PMR installazione senza utilizzo gratuito 16 canale 8 più 8 programma batteria 3.7 volts con autonomia per base robusto resistente per lavoro aspetta vedere professionale informazione di prodotto. Allora, un kit professionale con 16 canali, PMR 446, facilità, Mi grande B, BR02, allora, 68, ebbene, un cavolo è qui, forse è qua, clip, cintura, adattatore da parete, batteria ricaricabile, vediamo una base di ricarica, sì, ma c'è la potenza uscita, la potenza uscita, guarda che la potenza uscita, la parola è power, capito, power c'è scritto, la potenza di uscita, però se parlo di professionale può essere almeno 5 watt, può essere. Oh, è visto power, non lo dice. Sono capace di no, descrizione, formazione aggiuntiva, formazione prodotto. Negli affari, robustezza, B02, scelta, necessario comunicare, Mi danno B02, rivestimento alluminio, con 5.000 inserti garantiti, batteria a litio, dispositivo comunicatore, con acquisto, ricarica. No, non li dici no che di Bauer. Però che dice MPBBR02 dice posizione per la ricarica, niente. Ehi, vabbè, pazienza, se non la ciapi, dai. Se non la ciapi, pazienza. Comunque, power vuol dire uscita, potenza. È P, se mi bambini che si scrive, P, O, O, V, doppia, E, R, power, si dice. No, che non lo dice, si è fermato di tutto, PMR, installazione, canale, ideale, robusto, lavoro, vedi, caratteristica del prodotto, consegna prevista 31/1/2019, la di 31 da rivisere ultimamente, un paio di dischi. Allora vediamo l'eccessione, non lo vedo, no. Ehi, vabbè, pazienza, non ti preoccupare, tanto non è proprio preoccupata. Finta che funziona lì, come... Oh, è andato pure un altro, se pagisco, è andato pure un altro, però qui tu vedo il frequenzimetro e mi piace di più. Pazienza, avanti caggiù di terra e lo frequenzimetro non funziona. Ma se sei staccato qualche filo dentro, mi vuoi tenere caggiù. Ma che funziona, funziona, beh. Sia in trasmissione che in ricezione. Solo che non ho scritto più la frequenza, non ho scritto più la frequenza. Vedi, con il display che rimane al centro, cioè sono uguali e c'è il display al centro. E costa 99,95 e poi quello che ti stavo dicendo costa 84,95 centesimi, invece l'altro costa 99,95, dice trasmettete Midland G18, quello là è G15, poi viene, no che viene pure una coppia, pure una borsa di dati, coppia c'è trasmittente Motorola, walkie talkie T82 estremi, con lo sconti costava 107, 79, 80 euro, là, 2, sono gialli. Aggiungo questo, sicché per la differenza di desio lo danno, uno si sono comparati e compagno compara anche su quello di display. Se per so per desio di differenza. Eia, ma ce n'è anche ora un altro che costa ancora più poco, c'è il display rotondo, ma pare un ugo, pare il display. E poi ci sono questa coppia vicetrasmittenti Motorola Walkie Talkie T82 Extreme 79-80 euro, ti date la borsa, due caricabatterie, due batterie, un sacco di roba di là. E se lo seveni, se si sono te la sei due, grazie a tutta questa cosa. E che se lo sei, venissero degli appena che dietro la faccia non intende più. No? Poi, no, vedo professionale, minimo 5 watt. Se mi è scritto professionale, è minimo i 5 watt. Non ci sono dubbi. Poi può essere anche da 5 e anche da 8, può essere. O perlomeno parte da 1 a 5 e poi anche a 8. Può arrivare. Per cui, io non sapevo come ti funziona. Va bene, dai. Pazienza, grazie. E non entra nessuno, vabbè, non entra nessuno, tutti molti. Sì, questo qua è professionale, infatti viene a costare questo qua, senza il display. 56,61. Viene 56,61. Questa è una prezza al 31/1/2019. E infatti, grazie, accende il baracchino sul canale 10, dai. No, intanto subito mi ritiro tutto qua. No, oramai non la accende più a tardi. L'ho acceso stasera perché volevo far funzionare un po' il computer, capito? Se no già lo volevo accendere, ma la bella di te, forse funziona poco il computer. Grazie, ti tengo bassissimo, non ti tengo più, dai. Passa su di se non se ne va a vedere più. Se no pazienza, se no ti salutiamo e via. Ehi, vabbè, ciao, e a te l'ho chiusa, aveva. Sì, si era allontanato Antonella, aveva chiuso, Antonella sì, era uscito, ha detto fra un'oretta, ha detto che rientrava, era uscito, è andato a pigliarsi un breco, ora se ne è andato a giardino, se ne è andato a pigliarsi un breco. E Luca invece è uscito lo stesso. Luca aveva detto 20 minuti di pausa faceva, non si è più sentito, 20 minuti sono già passati, pazienza. Vabbè, dai, grazie, ci sentiamo, dai, che ti sto sentendo male, ci sentiamo, ciao. Ehi, vabbè, ok, Luca se poi ci sono stato più male, sta facendo l'amore, ciao! Ah, vai, pensavo che è buono, usa la più male, l'amore. Ehi, Luca è l'onzio, vede Giulio, e tu dici entro subito, ed è sempre cavenni. Sono andato subito, grazie. E a pagare rubare, ciao Luca, che siamo, ciao. Sei entrato in baluta. Cosa c'è Vittù, dimmi. No, per quel fatto che adesso con la ciao, se vendi la mamma, aggiungi tu, ma non mi pare. Adesso vedete, io solo a chi subessa. Chissà cantanne che non invasi. Ehi, e allora, sono di frutto solo. Mamma mia! Già che la nostra grazia, Ibu! Per carità, prima di risette, sono risette e 20. Ehi, tu sei andato a mangiarti la pizza ieri sera, io mi ho mangiato la faina, bello bene, con le cipolle, me l'ho comprata la ruota, buona rida! Oh, io la fai nego le cipolle, mamma mia, ecco, dove l'hai presa? Ha visto che ti ha fatto male che ha mangiato la fede con le cipolle? Dove la ruota, grazia? Stavo al supermercato dopo c'è il treno, e chi mi dà rete? Sotto al supermercato. Mamma mia, cosa una, mamma mia! E ti metti così, se me te la fai? A me pare che la fai lei, siamo un po' pesanti, non ti pare? Sì, la fai lei, ma ti trubbiamo un bel, Trubbiamo la fai lei con la banana! Ciao Gio Maria, avvenomi, con un bisogno di mezzo la fai lei a Graziano. Mi sa che è arrivata a Milano Giovanni da oggi, prima di pranzo, a Giulio ti faccio un po' corretto. Ti lagurio, avammi la bagno, mi pare di 4-5 fette, 20 croci come ti piace a me, e mi lascio bappati. Iaia, vabbè, buona comunque, sì, ma è più buona qua vicino a te o la ruota? No, lì ho chiuso, non è più, l'ultima volta mi ha regato la pista, vazia di schifo, no? Ha già mandato una capricciosa e mi ha mandato un miscuglio, pure un battato fritto, vero? E mi dice, che aspetta capricciosa? Dice, oh, boh, basta, chiuso, non è bisogno di nulla, dice, no. Faccio due passi in più, c'è la ruota lì, qua, buonissima, sia di bici che chi la fai lì. Ma dov'è? Sotto il locale che c'era Giovanni Lo Giordo? E lì sotto, hai visto per entrare al supermercato, c'è l'altro cancelletto, poi lì sotto c'è il fondo lì sulla destra, sempre dove c'è il supermercato, c'è la pizzeria, se la beva pure i di bonzi, adesso l'ho fatto più grande. Prima di aprire questo qua, la prendevo sempre lì. Poi ho consegnato a domicilio che non fa, ma c'è due passi, poi andava benissimo. Gio Mario, cosa ne dici? La Blu-Bemmo? Oh, aspetta, ho solo il telefono, come faccio io? E per fammi due venti. E me la ritiro, mi dice che ora andrò a ritiro. Ma accanto il microfono a me, paura c'è la vita giù. Beh, paura, paura. Ho detto, aspetta, che gli dovevo dire questa ancora, la puoi ordinare, e poi dice l'orario e poi vai a ritiro. Riprendi, non netto. Fa vedere, dai. Vabbè, dai, comunque bisogna assaggiarla. Secondo me la migliore che c'è è quella, beh, fatta a forno a legna, su questo non ci piove. C'è un, adesso non so se è ancora lì, una traversa del corso, Vittorio Emanuele. Non so se è ancora aperto. No. Non via Usai, c'è anche via Usai, sì. Però questa è forno a legna, ma è, guarda, di uno spettacolo, sembra che stai mangiando, boh, non lo so. Ma è, vabbè, però c'è anche questo dove lo fanno lì, giù in fondo rimane, adesso non mi ricordo che via è, e c'è uno che fa la faena. Grazie, altro che chiude la ruota, No, yeah, lo so, io... Quando uscivo in giro così andavo sempre in via Zai, da Sissu, da signor Carlo, che poi lì via lì al Monte, e adesso mi ricordo dove c'è l'asilo, quella discesa lì, mi pare o via Montello, c'è Antonello, che è il figlio di Sissu, che è bravo lo stesso, anche lui le fa buono. Le fisse. Se no le figli di Ausai da Carlo. E andavo sempre a mangiarmi la fani da Carlo. La fani. La pizza di Fazio Antonello, fa di pizze e la fani. Capito mia? Riprendi Gio Maria. Non la gara Gio Maria, no. Ah, Luca. Scusa, grazie, stavo parlando con Marina. Tu prova a comprare lì qualche sera. Se vuoi il numero te lo do, la ordine e poi vai te la ricchi. Comunque, anche sai che la fa buona, grazie a Cocco. All'emiciclo, va buona, abbiamo preso Marina una porzione. Ti metto 2, 3, 4 fette, mi sa 5 fette, boh, 6 fette, più o meno Marina, più o meno. È buona, ho le cipolle, buona. La cosa te la fa come la vuoi, con salsiccia, con cipolle, come la vuoi tu te la fa. Ci sono i foglietti, ci sono tutti i fritti. Allora, la figlia quella era... Da 90 era Paolo. Da 60. 12 euro con cipolle. Poi se l'hanno la vuoi con cipolle non vedo, però e mannami da 60. Lo so, per due sì. Però allora prendevamo, sai dove, anche in pianura, non so se l'hai mai mangiata. Gio Maria di sicuro l'avrà mangiata lì in pianura, vero Gio Maria? No, non l'ho mangiata. Lì a pianura non è mai preso la faenè. Cavolo, e via usai? Magari ogni tanto la scarpetta già la mangio, ma non molto spesso, capito? Perché mi gonfia, allora preferisco non mangiarle, dai. A tutti gonfia, però è buona, dai, con le cipolle. A me senza cipolle non te le mangio, Non mi si vada. Non mi ci scende, solo con le cipolle a me. E ci siamo qualche condimento. Ma la cipolla di sicuro ci deve essere. Poi c'è cipolla e salsiccia ancora meglio, dai. Anche se è un po' una bomba. Vabbè. Grazie a... Così è. È così. Io la pizza la sono la mangio a monte. Mi tratta bene. Mi siede a tavolino. Non spendo molto. Anzi, spendo un bel poco. Prima già ci andavo in pizzeria. Lì in via Carlo Alberto andavo. A Sassa, dietro i carci. Quella strada lì. Via Carlo Alberto, lì. C'è un ristorante pizzeria, andavo lì, anche a Ociaro Manicomio, dietro i giardini. Lì c'è un ristorante bar, pizzeria, c'è il piano sotto e il piano su. La sera già ci andavo con Paoletta e i ragazzi. Prima ci andavo più spesso, vado, mi addanto, se no me la prendo e me la mangio in casa, capito? Certo, già è buona, dai, già è buona. No, la pizza là, già, io l'ho presa, già l'hai vista, piccolina con le patatine. Mi ha saziato abbastanza. Dipende anche, secondo che pizza prendi, mangi e bevi 12 euro, 10 euro, 9 euro, dipende da quello che prendi. Però non superi sempre quel tanto. Lo so, io... Ultimamente ho mangiato, era tardi, ho mangiato lì un piatto composto. All'Eurospito c'è il bar tabacchi. Lì fa panini oppure fa il piatto composto, no? E l'ultima volta ho mangiato lì, ho pagato una fesseria, ho pagato. Ma sai Romagna che mi ha arrabbiato? Venire a Baribuc, laggiù in su. Tutta questa roba io non me la mangio, quello che non si mangia lo lascio. Infatti noi vinnaggio mangia tazza, calamari, un bel di roba. Lo so. Gian Marie, silenzioso si stasera. No, lui, sai, sto guardando film, non me lo voglio perdere. Scusate, sono entrato la battuta poc'anzi. Ma mi guardo prima i film, là, eventualmente. Siamo 10 minuti e già finisce, per cui già rientro, là, se ci siete. Dai, dai, Lu. Eia, Vittorio. Ma mi senti o non mi senti? Già ti sento già. Ma forte e chiasso o forte e chiaro? Forte e chiaro. Vabbè. Sempre lì sei, no? Sono passato ieri. A Salesiani. Ma ce l'hai freddo oggi, perché io non lo so, non sono ancora uscito. Cos'è lui, non ti ho sentito? Ho detto, se ce l'hai freddo, che io non sono uscito stasera. No, non ce l'hai neanche freddo. Ma meno di ieri? Vabbè, ieri c'era vento, ma oggi proprio freddo, proprio non ce n'è. Vabbè, no, ieri notte sì che c'era freddo, cavolo, non sono entrato a casa a luna. Vabbè, ce l'ho vestito un po' leggero, ma cavolo, ma arrivo a casa, tu conta, da qua al monte, ho acceso l'aria calda, stavo bene in macchina, anche troppo caldo, ma se non la macchina giù mi gancareggio, ma giù mai, mi sono gancarato. Poi vabbè, sono andato a coricarmi, mi sono buttato sotto la coperta, invece grazie. Già ti credo, poi con quel freddo, cazzo, minimo ti sei proprio dentro le coperte, minimo ti posso immaginare come ti sei messo tu nel letto. Uia, invece grazie a una signora fuzia, tu basta fa pelletto e travolito, vero grazie? E allora vado la borsa all'acqua calda io, con il rivestimento vellutato, me la può capire e mi cade di bici. E anche noi la usiamo, ci scalda, è un micidiale. Tu conta, quando stavo male, manco la borsa dell'acqua calda mi scaldava. Ui, e tremavo proprio, perché non stavo bene, normale. No, adesso non c'è bisogno, già che è caldo, poi l'ha messa a 5 la stufa, però mangia a 5, che hai pittina, scalda, perché scalda, ma mangia un bel. Mangiasi un sacchetto a me mi va, sì, alla vista, la bonguaccia, però è caldo un bel, non è letto, c'ho le lenzuola ben fatte, è un piumino sopra. Una volta che mi corico scaldano subito quelle lenzuola e ci sta bene e c'è il caldo. Prima quando c'avevo le lenzuola normali, unghie a freddo, va più cocci, manti, invece con queste lenzuola bastano le lenzuola un piumino e c'è il caldo. Lo so. Comunque già scalda, dai, vabbè, poi siete sempre in due voi, capito? Noi non siamo sempre in due, grazie, perciò non ti può lamentare. Quando sei solo ti metti la borsa dell'acqua calda, sennò c'è una bulla, te la casa ti la borra a piedi. Lo facevo, anche due bottiglie dentro il letto, un'acqua calda, e uno di voi ce l'ha giù fatto, un freddo. Ma quando stai male, manco la borsa dell'acqua calda basta. Io lo faccio, quando faccio la ottica, come dice Barrivecci, in continenti, all'autogrill, entravo in bagno, mi pinavo la bulli dei bagagli, mi ripuniva in alto alle gocce, la borsa da favore, curavata e tornava a viaggiare. E comunque c'è un metodo buono, dai, ti scaldi un po'. No, c'è tipo il letto ghiacciato, ce lo metti dentro, certo lo scalda, ti copri bene, io a voglia che dormi. Però la borsa dell'acqua calda, la borsa dell'acqua calda più tenuta, invece la bottiglia si raffredda subito. Che no, già dura, a me mi durava avvistamento a manzanini. No, ma con la lenzuola ben fatta no, non me ne metto, no. Ti sto dicendo con quelle lenzuola bel fatti, e quello sotto, quello sopra più un cucino, e sopra un piumino, come entri dentro due minuti sei a casa, anzi ti vieni evaporati, allora io mi scappo un buco, perché sono bel fatti, non sono come le lenzuola in cottone che rimane in freddo, questi sono bel fatti. E come quello che abbiamo noi adesso, dai. Ce l'ho pure io a casa. Quelle sì. Ma se ci vuole stare male, è un casino. Ti tremuleggio, non basta la borsa della qualche da, ce ne vogliono 20. Dipende da Roberto che fai, però una volta che io mi metto a letto, sto bene. Io sto qui a bene. Certo. E stavolta cosa mangi, grazie? Non lo so, noi che mangiamo italiana, Oggi mi abbiamo mangiato un burro di tortiglioni, e poi mi abbiamo mangiato 4-5 fette di acquani, e poi secondo me non ne ho mangiato anche i cinghiali a secchio, e poi cosa mi ha mangiato? Una frutta, un arancio, e buh. Via. La mamma c'ha sempre questa glicemia alta, la pressione è alta, è a rischio, lei continua a fare quello che vuole, capito? Perché già la glicemia, cioè il diabete lo sai che è maledetto, danneggia, perché è maledetto, è una brutta bestia, guarda. E lei continua a fare di gabusoio, mi fa incavolare, guarda, credimi, perché mamma stava bene, era, non dico perfetta, ma le glicemie erano belle, 120, 130 massimo, adesso 200, 245, Ma mi se mandendi, cioè, io ho detto, guarda che poi io la parte mia l'ho fatta, te l'ho detto, non ti ha aiutato, ti sei ripresa bene, io non riusciamo a alzarsi dal letto, adesso fai di testa sua, grazia, e non so più cosa fare. Ah, peggio mai, da, se tu l'hai visto e da bambini come ti vuoi, cosa gli fare? No, io stamattina quando mi sono alzato, ce l'aveva 171, poi allora prima di pranzo ce l'aveva 101, poi me la misuro e non lo so come mi ha mangiato stasera, il caffè è un pezzo di crostata con la marmellata, boh, non so che si mi sia alzata, ma la devo misurare e niente, e boh, però a me cucino non è sempre che mi ci sale quando mi mangio imbriati, i caramelli, i dolci, i cosicino che è pieno di dolci. Oggi non ho toccato niente, a parte quel pezzo di crostata. Ehi, è perché io dopo un po' caldo. Mi ha mandato solo un pezzo, mico, cosa ti posso dire? La metà del palmo della mano, va. E che me lo bevuto col caffè e mi ha mandato quel pezzo. No, io la pressione mi piace con chiusa, però prendo la pastiglia io ogni notte, no, ogni notte la prendo qui. Mi migliora, mi ne trae a parte, la mangi questa metà di pasta, no, non mi voglio, la capisco, ma ti mangiato la crostata, di quei, quale pasta è bella ripiena, dentro, al cioccolato la ripiena, bella marroncina, ma non ne ho voluta, dice no, non ne voglio. Pressione, via, alterata del sangue, scoppi, va. Certo, io la verità, credi, non so cosa fare. Io glielo dico per il bene suo, non è che posso stare sempre all'ospedale io, perché se lei si tiene conto che mangia a regolare, che mangia, lei mangia come mangiava prima, mi grazia, prima aveva paura di mangiarsi un pezzo di dolce perché aveva paura, adesso non gliene frega niente, ci sono tutti i dolci che si mangia di nascosto, e poi mi dice c'era la pressione, la glicemia alta. E tu gli basta la gallina, non sono i dolci, cosa vuoi che ti dica? Peggio basta, tu dimmi così. Io te l'ho detto, se vuoi fare di testa tua, fai come ti vuoi, a sei mamma è vaccinata. E cosa ci puoi fare tu? Tu non ci puoi fare proprio niente. E io ti dico, magari tu andare a chiederlo, a dargli consigli, da me fare dei cappucci. E tu cosa puoi fare? Non ci puoi fare niente. La grappa, è manna, no? Così mi avrà detto la saluta. Sento giumare mezz'oretta la dico, ma Carlo, il panettone che c'è da qui, non è so, e che ce l'ha mangiato, babbo la sale, ci pigi il giorno più tra il tuo casa. Ha mangiato questo panettone, a giumare la sta in coma. È un casino, io la verità, mi dispiace perché è sempre mia madre, però, io non è che mi posso, vogliamo un esaurimento, baetano. Quando vedi? Quando si accorge che si intende male, tu la ragazza cosa vuoi? Già ci ne avrà bisogno giuda, a meno che non gliela fossi più. Infatti se non te ne frega niente non fare più insulina, tanto. Mi prende la parolaccia, vai e gira i punti dei puntini. Alla fine io non lo so, grazie. Però io posso chiamare mio fratello di Bosutorra, a Guiso di Sosso, a diglielo a loro che mamma fa così così. Cioè non lo so. Tanto mi dicono, io so che posso fare. No. Io, ma anche quello che c'è in casa non posso, me ne freghista, Perché lui prende i dolci, mette in frigo, e quella normale che vende i dolci magari se li mangia. Un pezzettino se lo mangia sempre. Ebbene, così è, ma sì. poco poca ragione. Ci mangia tanto e chi è costretta a chiudere la chiave? I dolci, i caramelli, se viene qualche uno, cosa gli dai? Io, i biscotti, queste cose, le merendine, le chiude. La volta c'ha lagato lo sport la mezza, ci ha mangiato mezzo panettone. Chiaro che lì c'è stata la ricchezza, che l'ha buttato la mezza, lo sciocco. Non ce la mangia. No, ha fatto un limone, non mi ha messo niente. Vai tu, in tennis, dice un limoncello che ha fatto me cugnato. Vabbè, purtroppo ti devi dare una regolata, è inutile, è come uno che magari il medico dice di non bere, adesso una regolata bevendo, invece di bere una bottiglia se ne beve mezza bottiglia, per dire, no? Poi se lui invece di bere una mezza bottiglia se ne beve una bottiglia e mezzo e alla fine non gliene frega più niente. E lui sta facendo lì, cioè si alza durante la notte, si fa il latte alle 3, alle 4 del mattino, secondo me mangia anche due volte. E purtroppo la pastiglia che prende, che gli copre tre insuline, di cui colazione, pranzo, pranzo e cena, quella pastiglietta lì, non ne la sta coprendo più, grazie, perché è sempre alta. Vabbè, non ce la fa la pastiglietta. Ah, e allora devi fare la pastiglietta. Ce la va. Il mio cugnato l'ha ridato un Lo so, purtroppo è fatta così, mi risponde male, io non so cosa fare, poi questa pressione è alta, è a rischio mio, io glielo ho detto, non ne frega niente, nell'attimo si spaventa, ma poi io, cioè, io la metto, come si dice, in guardia, ecco, diciamo così, ma non ne frega niente, non mi risponde male. E io uso a voi, se succede qualcosa non è che mi prendo le responsabilità, io no? La responsabilità, cioè manna è vaccinata, se tu glieli dai così e da non si regola, figlio per lì. Avevamo praticato, l'usano, chi da poi li fa di male, chi si ha da infilare sempre, intanto si ha da casa. E poi assaggiano il burro, no, la pulla sabbia, cazzo di ha. Ma poi sai cos'è che mi ha fastidio? C'è questa glicemia alta, lei mi dice che non ho mangiato niente. La glicemia non ti sale, grazie, capito? Non ti sale così, infatti io gliel'ho messa a 14 stanotte, invece di farne 10, perché ce l'aveva alta. Poi oltretutto la pressione è alta, un casino, è incasinata forte. Ehi, mi devi stare attenta mi burro con la pressione. Secondo che sbalzo a base vi rimani. E glielo ho detto, ma questa persona è ma... Caduto sì. Ehi, grazie. Ehi. E tu grazie, sciansi cosa ti mangi? Luca. Cosa c'è? Dimmi Pizzu. Sta giù lì, tu sciante se ti mangi. Allora, c'ho un po' di pasta di mezzogiorno, però non ne mangio. Mi faccio le patate con l'origano e poi, boh, cos'è che figa? Ah, cotolette impanate. No, non le faccio impanate. Ah no, e come le faccio? No, niente impanate, il tegame. Ah, buoni! E facciamo cosa si è mangiato Vittorio già a pranzo, chi si è mangiato? Un po' di pasta con le pennette con ragù, perché c'era il ragù ancora... C'era ancora un po' di ragù, me l'ho messo con la pasta asciutta. E poi, per secondo, ho mangiato quelle patate con i carciofi che avevo fatto ieri. Sono buoni, li ho mangiati l'altro giorno io, le patate e i carciucci. Buoni, buoni. Luca invece ha mangiato piedi di anguilla. Mi posso immaginare che ci ha mangiato Luca? Piedi di anguilla e ali di topo. Ehi, mamma mia. Da adesso dall'inizio pure i baffi. Ti posso immaginare. Luca, ma che aggiungi la ruletta così? Luca, passa mia marina, cosa spegni? Ma, sparito, non si sente più. Non si sente più. Secondo me è spegni quella cosa. Devi darsi a spendere amori. E allora, mica è furbo, mi. Se proprio dici, a me pare che Luca a me dalla faccia sembra furbo, ma però ieri la volta arrabbiato. E per forza c'erano quelli pendili scemi. Se mi ha detto, io ho vinto, fammi di parlare, io che sono sotto con una tonda. Oh già, non era poco mezzo arrabbiato. Ehi, che ti ha detto che li tenta e gli pensa tutti i dischi. Ma che? E mi pare che Luca gli ha rubato. Luca, ma caduto sì. Caccio due, grazie. Vabbè, dai, io chiudo qui tu. Ci sentiamo domani, là. Ciao, buona cena. Ciao Luca, se mi senti, buona cena. Ciao Gian Maria, se sei in ascolto. Ciao chi è in ascolto. A domani, ciao. Ciao, ciao Marzia. E vai a casa adesso che c'è freddo, non stare in giro. Eia, eia, ciao grazie. Ciao, ciao. Sì. Vito!